denari. Silenzio. Record, scossa, fermento sugli scudi. Quante volte ci avete sentito usare qui a Radio 24 nei nostri collegamenti questi termini per definire l'andamento dei mercati, di particolari sedute magari? Ma cosa c'è dietro questi movimenti? Queste notizie devono mettere una pulce nell'orecchio al piccolo risparmiatore o è meglio che non si lasci troppo condizionare? Ce lo chiediamo proprio oggi aprendo un nuovo appuntamento con Investire Informati. Investire informati. Ci ritroviamo nei nostri giovedì dedicati alle parole del risparmio, agli strumenti di investimento, un dialogo settimanale con i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sui temi di attualità finanziaria. Cerchiamo di aiutarvi a decifrare le dinamiche che sono spesso complicate dei mercati finanziari, ma anche le notizie che movimentano le sedute di borsa, le parole con cui si descrivono i fatti più rilevanti della cronaca finanziaria. Percorso che abbiamo deciso di intraprendere perché abbiamo constatato più volte come ci sia un certo distacco fra quello che succede nel mondo e le scelte di investimento che fanno le famiglie, come se le questioni fossero separate. Invece non è così. Abbiamo visto spesso come fatti che sembrano molto lontani da noi vanno invece a movimentare anche i nostri risparmi. Per cui ci sembrava utile fare questo percorso di consapevolezza, che è un po' anche il termine che abbiamo usato nella prima parte della trasmissione. Consapevolezza che ci permette di decifrare temi a volte oscuri. E quindi anche oggi ripartiremo dalla cronaca per andare poi oltre commentando le vostre scelte personali che già ci state raccontando all'800240024. Tanta carne al fuoco per Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management. Buongiorno, bentornato. Buongiorno, buongiorno a voi. Benvenuto. Le modalità per interagire con noi sono sempre le stesse, 800240024 per intervenire in diretta. Se volete scriveteci al 349-238-6666, su Facebook, su Twitter, scriveteci delle mail a cuoredenari@radio24.it. Possono venirci a trovare qui in via Monterosa? No, non lo fate perché magari non abbiamo tempo, però insomma le modalità per arrivare a noi sono molte. Al termine a metà della trasmissione, di questo approfondimento, vi faremo il solito domandone per testare se la nostra lezione ha lasciato un segno e quindi apriremo poi la nostra biblioteca. Allora, dottor Alfieri, cominciamo subito con il tema con cui abbiamo iniziato. Abbiamo cominciato a solleticare un po' l'attenzione dei nostri ascoltatori. I colleghi della Finanza, del Sole 24 Ore, ma non solo, da qualche giorno descrivono l'andamento delle borse come un rally. Ci spiega quando è che si fa questo parallelo con il gergo automobilistico? Sì, è un termine ormai utilizzato moltissimo, non solo in finanza, ma sostanzialmente inquadra un periodo in cui alcuni mercati finanziari specifici, in questo caso possiamo pensare alla borsa, alle borse europee, in un arco di tempo abbastanza limitato hanno un andamento positivo, molto positivo. Quindi in un lasso di tempo abbastanza ristretto si verifica questo fenomeno di forte crescita dei listini, che ovviamente è sempre ben visto dagli investitori. Certamente, quindi insomma, se dovessimo magari proprio guardare al grafico delle borse di questi ultimi giorni, vedremo questa impennata del corso appunto dei grafici. È speculazione secondo lei quella che si sta manifestando in questi giorni, legata ancora alla crisi greca, che è una crisi speriamo sulla via della composizione, oppure c'è della sostanza dietro a questi movimenti, oppure il motivo di queste crescite è che per chi investe non ci sono alternative alle azioni e quindi gli indici corrono per questo? Ma diciamo che non c'è ovviamente una pura speculazione, ci sono una serie di elementi, brevissimamente li riassumo. C'è ovviamente un andamento economico generalizzato positivo in Europa, anche in Europa adesso, negli Stati Uniti fino a poco tempo fa. C'è molta liquidità perché sappiamo che le banche centrali, non solo quella europea ma quella americana e giapponese, hanno immesso molta liquidità. C'è quindi molti capitali alla ricerca di opportunità di investimento e, ahimè, il mercato obbligazionario e ad esempio la liquidità rende pochissimo. Quindi una delle scelte più interessanti, una delle mete più preferite dagli investitori in questo momento sono i mercati azionari. Tra l'altro, proprio a proposito di obbligazioni che rendono pochissimo, più avanti faremo anche un approfondimento su questo. Abbiamo delle aste del Tesoro italiano in questi giorni. Ieri abbiamo visto i bot semestrali rendere lo 0,06%, niente. Praticamente fra un po' andiamo noi dal ministro Padoan e gli diciamo, insomma, ti paghiamo per tenere i nostri soldi, caro ministro del Tesoro. Io direi di sentire subito i nostri ascoltatori. Sai volentieri che facciamo? Bene, cominciamo andrei con da Piero, che ci chiama da Pavia. E poi ci spostiamo a Bergamo. Piero, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie Piero, ci dica tutto. Volevo confrontarmi per quanto riguarda la mia attuale strategia di investimento. Sì. Io fino a circa 9 mesi fa tentavo di fare investimenti abbastanza lunghi nel tempo e che quindi avessero un ritorno di un certo interesse e magari un pochettino tranquilli. Mi rendo conto ultimamente che questo non è più possibile, nel senso che per esempio le obbligazioni praticamente non si possono più comprare perché non vendono nulla. Piero, riesci a parlare con la cornetta un po' vicino alla... Sì. Perché ogni mi rendo tanto conto va. Che ultimamente non si riesce più a operare in questo modo. Non è più contento di questa strategia, cosa ha fatto quindi? Esatto, io da circa 9 mesi a questa parte faccio investimenti magari di una certa consistenza per quanto riguarda il volume, ma molto brevi nel tempo. Per esempio un BTP lungo, per esempio 2037, acquistato e comperato ripetutamente, acquistato e rivenduto ripetutamente, consente di guadagnare una abbastanza in conto capitale e di mantenere la cedola che è del 4% lordo, che è di tutto rispetto. Oppure, non so, un ETF sulla Cina, sul Giappone, sul Dow Jones, anche lui acquistato e rivenduto velocemente con un atteggiamento di mordi e fuggi, riesce a portare un buon ritorno. Volevo sapere se questa è una mia idea sbagliata o se è una cosa che effettivamente ha un senso. Allora, intanto non è proprio uno sprovveduto dei mercati, Piero, almeno quantomeno abbiamo la sensazione della persona che abbia una certa dimestichezza con gli strumenti di investimento che usa. Detto questo, come dire, investire in un BTP come se fosse la Tiscali del 2000 Alfieri è comunque una scelta coraggiosa, direi. Guardi, questo esempio è molto interessante. Siamo di fronte ovviamente a un cliente, un risparmiatore che ha sicuramente un approccio al mercato molto particolare, molto professionale, ed è questo un po' il pericolo di questi mercati. Sono mercati molto tecnici per professionisti, non è molto facile fare il fai da te, abbiamo visto i rendimenti schiacciati verso lo zero anche di titoli di Stato che fino a poco tempo fa rendevano moltissimo. Quindi la nostra visione è che purtroppo bisogna lasciar fare ai professionisti che possono operare in modo flessibile su tutti i mercati. Non c'è un mercato più interessante rispetto agli altri, non c'è un asset class rispetto agli altri da preferire, bisogna quindi operare in modo molto veloce e snello, come ha interpretato il nostro ascoltatore, per cui ripeto, il fai da te è assolutamente sconsigliabile, per cui la risposta è che in mercati così tecnici, così difficili, probabilmente bisogna lasciar fare ai professionisti. Detto questo, questo credo suo che suo mordi e fuggi premia. In questo caso lo premia, secondo me. Il però rischio... lui ha anche una tenuta, se posso aggiungere solamente, sì, magari che non impieghi tutte le sue risorse finanziarie, una modalità di gestione di questo tipo che magari diversifichi. Bisogna separi diversificare un po', molto chiaramente alla base di tutto. Certo, dopodiché Piero appunto non è, come dicevo prima, non mi sembrava esattamente lo sprovveduto, ma continueremo a commentare la scelta di Piero e non solo, direi dopo il giornale radio abbiamo anche Enzo da Bergamo e tanto altro ancora, tra poco. Cuore e denari. Eccoci ritrovati a Cuore Denari. Oggi, come ogni giovedì, chiudiamo la puntata con Investire Informati, la rubrica che vi spiega i termini del risparmio, come funzionano i prodotti di investimento, come si spiegano le dinamiche dei mercati. La parola da cui siamo partiti oggi è rally, il rally dei mercati di questi giorni. Abbiamo anche cercato di commentare delle precise scelte di investimento fatte da un risparmiatore negli ultimi tempi. Ha cambiato radicalmente modo di approcciarsi ai mercati finanziari e insomma ci sono tanti temi da trattare. Ripartiamo. Investire informati. Con noi questa mattina Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management. Allora, tra l'altro, non abbiamo ricordato i temi che abbiamo lungamente commentato in puntate precedenti. Circa un mese fa Mario Draghi ha annunciato il quantitative easing, quindi questa grande iniziativa di stimolo monetario che partirà a breve, perché da marzo, dalla prossima settimana, si parte con l'acquisto di titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea e oltretutto ogni banca nazionale dovrà fare anche il suo e comprarsene un po'. Dopodiché abbiamo ricordato che ci sono state le elezioni greche, un altro grande appuntamento a cui hanno guardato gli investitori professionali. Ma dottor Alfieri, guardiamo invece adesso ai prossimi appuntamenti. Ce n'è qualcuno che voi investitori professionali attendete con particolare attenzione? Ma diciamo che nei prossimi mesi obiettivamente stiamo guardando il piano di ristrutturazione greco, come verrà realmente implementato. Questo ovviamente potrebbe avere degli interessanti impatti anche sui mercati finanziari. Stiamo guardando con molta attenzione all'andamento del petrolio, la stabilizzazione del petrolio, del prezzo sui mercati correnti può essere ovviamente un elemento molto importante per valutare poi gli effetti macroeconomici dei prossimi 3-6 mesi. Stiamo guardando anche alla Fed, cioè alla Banca Centrale Americana, cosa farà in termini di tassi, quando interverrà, e poi direi cosa che ci riguarda ancora di più sono i dati macroeconomici europei, se arriva o no questa crescita. Ci sono anche però degli appuntamenti elettorali. Sì, c'è un appuntamento elettorale a maggio molto importante in Inghilterra, che però io descriverei un importante appuntamento circoscritto però al mercato inglese, non certo un elemento che possa realmente influenzare, anche perché le aspettative di questa elezione sono abbastanza particolari, forse mai come questa volta. In Inghilterra non c'è un quadro chiaro di riferimento, cioè chi vincerà. Devo dire che però, siccome il quadro generale, come dicevo, macroeconomico, sia in Europa che in Inghilterra è abbastanza positivo, non ci aspettiamo degli impatti particolarmente importanti, a prescindere dal fatto che ci sarà una parte o l'altra vincitrice da queste elezioni. E quindi insomma non guarderemo con particolare ossessione ai movimenti della sterlina, anche se i conservatori di Cameron promettono di aprire un periodo di negoziati con l'Unione Europea, di promuovere un referendum dentro o fuori sulla permanenza nell'Unione nel 2017. Segnalo, ricordo che le elezioni saranno il 7 maggio e il 13 giugno ci saranno anche quelle turche. Nicoletta, se ti interessa, volevi andare proprio in quei giorni? No, ma so che è vicino al mio compleanno, quindi noi siamo sempre molto interessate per queste ragioni agli appuntamenti elettorali. Intanto voi a quali argomenti siete interessati? Se guardate al vostro risparmio, 800 24 00 24, il numero verde per condividere con noi scelte di investimento ma soprattutto le vostre domande. Vorrei sentire Maria Luigia da Bologna, perché quando una donna mi parla di mercati e risparmio mi interessa moltissimo. Maria Luigia, benvenuta. Salve, buongiorno. Volevo fare questa domanda all'esperto. È ormai tempo di uscire dal mercato azionario italiano ed europeo che ha corso tanto e rivolgersi quindi ad altri settori geografici mondiali, oppure ci sono ancora dei tempi diciamo di attesa della crescita di questi mercati? Grazie Maria Luigia, grazie a lei. Grazie a lei. Grazie a lei. Peraltro ieri ho fatto un po' di ricerca su quello che stanno facendo in questo momento società anche concorrenti a JP Morgan, e devo dire che ovviamente ognuna ha la sua strategia. Non c'è proprio un coro comunissimo, c'è chi in questo momento sta avendo un atteggiamento atteggiamento contrario in Europa, chi sta anzi implementando le proprie posizioni sia su azionario che obbligazionario, insomma si tratta poi di scelte individuali. Voi cosa ne pensate in casa di JP Morgan di potenzialità europee? Allora, ci sono dei fattori contingenti molto interessanti per l'Europa. L'euro si è molto svalutato, la politica monetaria centrale di Draghi sta iniziando ad intervenire, come abbiamo visto sta riprendendo la fiducia dei consumatori. Noi pensiamo che almeno in Europa nei prossimi 3-6 mesi le aziende europee potranno avere degli effetti benefici sui propri bilanci. Non ci dimentichiamo che nel 2014 la sofferenza maggiore è stata proprio vedere come i bilanci aziendali americani crescessero in modo continuo e molto importante, e dall'altra parte le aziende europee erano molto sofferenti. Quindi noi pensiamo che l'Europa e in questo caso anche l'Italia possano effettivamente esprimere ancora dei valori di crescita interessanti, proprio perché ci aspettiamo una ripresa dei consumi molto più consistente, una ripresa degli ordinativi alle aziende e quindi inevitabilmente anche una crescita degli l'euro giocherebbe a nostro adesso favore. Tocca un po' a noi, no? Che dice? Direi che è correttissima questa espressione, tocca a noi. Non ci dimentichiamo che negli ultimi 3 anni l'Europa veniva vista come un'area regionale molto interessante, ma poi di fatto deludeva. Quest'anno sembra poter essere un'annata interessante per il mercato azionario europeo. Ecco, perché ha proprio puntualizzato questa considerazione, quindi ha messo particolare forza sulla parola azionario, perché vorrei dare un commento naturalmente un po' più specifico sul settore obbligazionario alla luce di questi tassi sempre più rasoterra che anche i nostri titoli di Stato stanno toccando. C'è Allianz, le dico che cosa ha fatto il leader europeo del settore assicurativo: ha aumentato il portafoglio in titoli di Stato italiani a 31,4 miliardi di euro a fine 2014, l'anno precedente erano 28,8, però Allianz dice no ad investimenti in Grecia e Ucraina. Dunque, non si commentano ovviamente le scelte altrui, però magari due parole possiamo sentire. No, sicuramente è perfida, il mercato era buttata lì e poi non si commentano. Ma si commentano. No, il mercato obbligazionario internazionale è molto complicato, i rendimenti sono molto bassi in modo generale. Vi ricordo che ad esempio il 5 anni in Polonia rende l'1,8%, tanto per dare un'idea di un paese che non è ovviamente all'interno del consesso europeo, ma che comunque è un paese molto vicino alle dinamiche dell'Europa, anche in questo caso un paese quindi che ha dei rischi ovviamente valutari, rende molto poco, quindi non ci sono molte alternative. Noi pensiamo che per poter operare sui mercati obbligazionari, ahimè, come ho detto nel primo intervento, bisogna guardare molto ai professionisti, è molto difficile il fai da te, quindi vuol dire che pensare di poter individuare autonomamente il titolo giusto nel segmento obbligazionario sia quasi un lavoro molto difficile, se non impossibile. Utilizziamo gli strumenti adatti. Ci sono molte ragioni di curiosità fra i nostri ascoltatori che stanno cercando di capire, lo fa Paolo da Udine che adesso sentiremo, quindi non voglio proprio bruciargli la domanda, su questi rendimenti, com'è possibile che le aste comunque siano sempre così affollate. No Paolo, mi pare che la curiosità da Udine fosse questa. Sì esatto, buongiorno. A tutti, molto piacere di parlare con voi, che siete forti, devo dire la verità. Dunque, io vengo da una famiglia e anche io stesso sono un consumatore di botte, insomma, ho sempre investito bene abbastanza nei botte, no? E adesso l'ultima asta ho visto che sono arrivati al 0,09, se non sbaglio. Mi chiedo sempre, me lo sono sempre chiesto, quindi sarà una domanda stupida, ma non riesco a capire che motivo c'è di emettere dei bot a quel tasso, e soprattutto chi li compra, che interesse posso avere io a investire, non so, 5.000 euro su bot a 0,09. Guardi Paolo, è veramente la domanda sulla bocca di tutti in questo momento. Prima di farla rispondere da Lorenzo Alfieri, ci metto subito per movimentare un po' la trasmissione il nostro domandone. Faccio fare a te la domandona di stamattina? Allora, io non farmela fare, perché se no do subito l'aiutino. Quando quando ci saranno le elezioni in Gran Bretagna? Benissimo. L'abbiamo anche detto pochi minuti fa, per cui davvero è impossibile non essere stati attenti. Se volete i libri. Volevo chiedere anche quando saranno quelle in Turchia, ma chi fa due risposte, doppio libro. Dai. Tra l'altro te ne è rimasto uno di Daniele Belloni? Sì. Possiamo regalare anche quello. Certo. Non ci sono, mi pare, appuntamenti elettorali in India. Lorenzo Alfieri, da segnalare. Allora, quindi concentratevi sul domandone. Le elezioni in Gran Bretagna quando saranno? E poi giorno, mese. Benissimo, e anche anno possibilmente, ma sono fra poco. Allora, che interesse ha un investitore a mettersi in portafoglio dei titoli di Stato che non solo non rendono nulla, ma praticamente qua su questi livelli, tra commissioni bancarie, un pochino di inflazione che comunque bassa, ma ancora c'è, qua fra un po' paghiamo noi la banca per andare a sottoscrivere un'obbligazione governativa. Ma non ci dimentichiamo che ovviamente tra gli investitori che acquistano certe tipologie di titoli ci sono i cosiddetti investitori istituzionali, assicurazioni, fondazioni, fondi pensioni, corporate, che sono ovviamente obbligate ad investire con scadenze differenziate per modulare il loro portafoglio. Ricordo le assicurazioni a fronte ovviamente di impegni presi verso gli assicurati, e quindi c'è sempre comunque una platea molto ampia di investitori. E che garantisce che le aste non vadano, per fortuna, deserte, perché sarebbe quello un altro bel problema, ecco, ci mancherebbe pure. Diciamo che sul mercato italiano, clamorosamente, nonostante questi rendimenti, ci sono dei rendimenti molto più appetibili rispetto a altri titoli come i Bund o altri paesi del nord Europa, che ovviamente in questo momento addirittura danno dei rendimenti negativi. Quindi, però ecco, lei ci ha spiegato cosa devono fare anche per strategie commerciali specifiche gli investitori istituzionali, ma un Paolo da Udine per quale motivo secondo lei dovrebbe prendersi un titolo di Stato? Quale potrebbe essere l'alternativa più vicina ad uno strumento di investimento molto semplice, di breve durata, che però garantisse qualcosina in più? Ma in questo momento, come dicevo prima, il mercato obbligazionario presenta dei grossi problemi, ripeto, per la soluzione di un investimento. Proprio per questo motivo facevo riferimento prima ad soluzioni di investimento diverse, ad esempio fondi obbligazionari flessibili, dove il gestore si sostituisce inevitabilmente al singolo investitore, ha la flessibilità di muoversi su tutte le varie tipologie di titoli, individua magari soluzioni di investimento un po' più lunghe che rendono un po' di più. In questo momento però fare il fai da te, cioè acquistare i titoli di Stato a breve termine per risolvere ovviamente le necessità degli investimenti, purtroppo non è una soluzione. 800 24 00 24 il numero verde per le vostre domande, ma anche per rispondere al nostro domandone. La vogliamo rifare? Vogliamo rifarlo, stanno già rispondendo. Davvero? Molti, non stavo guardando il nostro numero verde che via SMS, però via SMS non riusciamo a darvi il libro. Allora, quale giorno e mese delle elezioni in Gran Bretagna? Per così anche cominciare ad esplorare un po' la sterlina, come si muoverà in vista di questo appuntamento. Andiamo però un po' più vicino di Londra. Sì, andiamo a Bergamo. Sì. Atterriamo subito vicino ad Enzo. Benvenuto e buongiorno. Andiamo ad Orio al Serio. Enzo, buongiorno. Sì, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie in anticipo per le risposte. Dunque, avrà due domandine, cercherò di essere un po' veloce. Bravo. Due. Vada. Due e mezzo, vabbè, comunque due. Ho una propensione al rischio, diciamo, media, ecco. Comunque dipende dai periodi, perché magari sono dei periodi che sono più, diciamo, di impoli rischiosi, altri meno. Più ardito e coraggioso, altri in cui invece un attimo si ridimensionano tutte le sue aspettative, sì. Esattamente. Dunque, la prima sarebbe questa. Dunque, circa sei mesi fa ho cambiato strategia di investimento. Dunque, dal conto deposito sono passato ai fondi di investimento, no? E cioè quelli definiti a rischio per il 35% del capitale. E, dunque, quelli definiti medio per il 30% per il passo e il restante 35. Ecco, vorrei capire se sono ben posizionato rispetto all'andamento dei mercati. Beh, Enzo, allora intanto lei sa bene che dovremmo conoscere che bisogno ha lei, la sua famiglia, quanto tempo ha a disposizione, perché cosa le servono questi soldi, progetti di vita, pianificazione finanziaria. Quindi, dando tutto questo per scontato, che non lo sappiamo, andiamo proprio a visualizzare un po' la sua attitudine così all'investimento. Però, dottor Alfieri, una cosa salta subito all'occhio: passare da un conto di deposito, che è proprio la liquidità lì che si può riscattare in un nanosecondo, al fondo di investimento un po' aggressivo. Certo che, come dire, c'è tutta una scala intermedia di scelte da fare, sì, che lui non ha neanche preso in considerazione. Da lento a rock. Bravissima, è vero. Però mi sembra che l'ascoltatore abbia modulato abbastanza bene la sua struttura patrimoniale, nel senso che ha preso in considerazione investimenti su fondi un po' più aggressivi, ma mi sembra che lo abbia limitato al 30%, abbia invece lasciato circa un 30-35% la parte, diciamo, un po' più moderata, presumo evidentemente fondi magari obbligazionari, e la restante residuo 30% in probabilmente strumenti similari al cash. Possiamo dire che, visto il punto di partenza, è una composizione abbastanza equilibrata e bilanciata. Benissimo. Diciamo che in questo momento un portafoglio tipo dovrebbe essere 50% azionario, 50% obbligazionario, ma ricordo a tutti che in Italia il portafoglio medio è sempre stato 70-75% obbligazionario, il resto azionario, quindi è chiaro che mi rendo conto che è già un grosso passaggio arrivare al 50% in azionario, per cui ci può stare ovviamente, diciamo, anche per la propensione alla cultura finanziaria dell'italiano, certo, è stato già un passo avanti. Allora avremo Maria Cristina, tanto per tenere viva l'attenzione sul nostro domandone. Ci chiama da Torino, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, siete splendide. Complimenti anche a lei, Maria Cristina, che sceglie bene, perché i complimenti vanno anche a lei. Esatto. Maria Cristina, quando, giorno e mese delle elezioni in Gran Bretagna? 7 maggio 2015. Certo, ha indovinato naturalmente, però mi sa che forse si era anche candidato un altro ascoltatore, ne magari le accontentiamo entrambi. No, brava Maria Cristina. Brava. Complimenti. Allora, le arriveranno naturalmente i nostri libri, libreria già pronta, biblioteca già pronta e aperta di Cuore Denari. Vorrei sentire subito al volo, per l'ultimo minuto e mezzo che ci rimane, Sesto dalla provincia di Fermo. Benvenuto. Buongiorno. Eccoci a lei. Innanzitutto buongiorno e complimenti per la trasmissione, siete straordinarie. Grazie. Senta, no, io volevo chiedere al vostro esperto, considerando che i titoli di Stato tipo BTP ancora stanno galoppando, se con l'avvento degli aumenti dei tassi della Fed che si prevede nel mese di giugno-luglio, possono avere un impatto negativo. Allora, titolo di Stato italiano, dottor Alfieri, e manovra di restringimento dei tassi da parte della Banca Centrale Americana. Che relazione dobbiamo stabilire? No, la domanda è molto molto interessante, perché è uno dei quesiti principali che gli investitori si pongono in questo momento nella gestione dei propri portafogli obbligazionari. Il consensus e anche la nostra valutazione è che comunque partendo da rendimenti molto molto bassi per quanto riguarda gli Stati Uniti, un rialzo anche marginale, che ci aspettiamo essere intorno a 0,25 punti base negli Stati Uniti, non avrà di fatto un impatto concreto sui titoli di Stato italiani, quindi evidentemente sui mercati finanziari obbligazionari europei. Nel breve termine sicuramente questo non ci sarà. Per avere impatti invece sugli investimenti obbligazionari italiani, sicuramente elementi molto più importanti potranno essere una crescita magari superiore alle aspettative in Europa e evidentemente un tendenziale recupero dell'inflazione. Quindi un effetto della politica della Banca Centrale Europea più che di quella americana. Allora, tra l'altro c'erano degli ascoltatori che chiedevano l'investimento nei titoli petroliferi sulla base dei prezzi eccetera. Se volete avere qualche informazione su questo, vi segnalo che oggi il Sole 24 Ore pubblica il giornale della famiglia, questo numero proprio dedicato al petrolio a buon mercato, quindi una grande inchiesta di Sissi Bellomo e non solo, gli strumenti di investimento corretti per investire in questo mercato. Grazie a Lorenzo Alfieri per essere stato con noi. Abbiamo risposto a tantissime domande. grande stamattina. Grazie, ci fa piacere. Grazie. Grazie. E noi torniamo domani, come domani sempre. Vi ricordo che c'è Salute Uomo, l'appuntamento mensile per la salute. Benissimo. E il benessere. Invece per i denari parleremo della scatola nera e dell'RC Auto. Ottimo, a domani.